Parto, diciamo, da una notizia che mi è sembrata interessante perché, diciamo, i giornali in Italia non mi pare che abbiano dato grande risalto e che mi sembra un episodio significativo, diciamo, del parallelismo che c'è tra questa questione dei vaccini e questioni, diciamo, di politica internazionale più generale. La settimana scorsa il ministro degli esteri di Taiwan ha lanciato un accorato appello agli alleati occidentali affinché questi procurino delle dosi di vaccino al Paraguay. In Paraguay nelle settimane scorse ci sono state, diciamo, ampie manifestazioni dell'opposizione che hanno chiesto addirittura l'impeachment del capo del governo, che credo che si chiami Mario Abdo, accusandolo di inefficienza nella gestione della pandemia. E il Paraguay è uno dei 15 paesi che riconosce formalmente la Repubblica di Taiwan. Nei giorni scorsi ha ricevuto 20.000 dosi del vaccino cinese Sinovac dal Cile, e Taiwan, ma anche l'amministrazione Biden, accusano la Cina e alcuni intermediari cinesi di avere promesso milioni di dosi di vaccino al Paraguay se in cambio il governo ritirerà il riconoscimento diplomatico a Taiwan. Negli stessi giorni, nelle acque, diciamo, del Mar Cinese prospicenti l'isola, l'aviazione e la marina di Pechino hanno fatto esercitazioni. Una quindicina di jet cinesi sono entrati nello spazio aereo che Taiwan rivendica come il proprio spazio aereo. Sulla costa di fronte, dall'altra parte del canale di Taiwan, sono state fatte anche esercitazioni di sbarco con mezzi anfibi, e gli Stati Uniti, diciamo, preoccupati da questa situazione, hanno inviato una nave militare che in realtà, diciamo, ha una presenza simbolica perché un piccolo cacciatorpediniere, diciamo, in quelle acque. E il Global Times, che è il tabloid, diciamo, legato al Partito Comunista Cinese, che noi spesso citiamo perché è una voce abbastanza interessante per capire cosa pensa Pechino di politica estera, ha scritto che le esercitazioni dell'Esercito Popolare di Liberazione Cinese non sono solo un avvertimento, ma una dimostrazione di capacità effettive, mentre un editoriale pubblicato l'altro ieri ha scritto che se le autorità del Partito Democratico Progressista, che è il partito di governo di Taiwan, continuano sulla loro strada radicale, rifiutano di fare un passo indietro prima che sia troppo tardi, sono destinate ad essere sradicate. Si tratta solo di vedere come e quando. Ovviamente, diciamo, in questa voce grossa della Cina c'è anche, come dire, un po' di esagerazione, ma la cosa che mi sottolineava, che mi interessava sottolineare, era, diciamo, da una parte il parallelismo tra, appunto, diplomazia dei vaccini e tensione geopolitica, e dall'altro perché questo episodio mi pare che ricapitoli un po' il diverso atteggiamento che hanno avuto da una parte i paesi imperialisti occidentali in crisi e dall'altra le potenze asiatiche, diciamo, quindi India, Russia, ma soprattutto, diciamo, la Cina. I paesi occidentali, America in testa, si sono concentrati sostanzialmente su due obiettivi, cioè uno è sostenere le proprie case produttrici di vaccini, anche difendendo, diciamo, la loro titolarità sui brevetti, che sono stati pagati in larga misura coi soldi pubblici, per cui, diciamo, che in qualche modo gli stati nazionali hanno anche difeso degli investimenti che avevano fatto col denaro dei propri cittadini, e dall'altra fare in modo di garantire il vaccino ai propri cittadini, sia per acquisire un vantaggio competitivo in termini economici, perché ormai è chiaro che in qualche modo il primo che finirà di vaccinare sarà anche quello la cui economia ripartirà per prima, e dall'altra anche per calmare un'opinione pubblica che ovviamente è già sotto forte stress per le conseguenze della pandemia e le conseguenze che la pandemia ha avuto sul, diciamo, sia sugli spazi di libertà sia soprattutto sulla condizione sociale. America, Europa e i paesi occidentali hanno fatto questa cosa in una logica mors tua vita mea, fino al punto di lasciare aperti degli spazi vuoti che la Cina e la Russia soprattutto hanno avuto modo di occupare, persino in America Latina, caso del Paraguay, cioè in un continente o subcontinente che gli Stati Uniti tradizionalmente considerano il loro cortile di casa. E in questo modo, diciamo, hanno anche smentito alcuni dei tradizionali dogmi, diciamo, dell'economia neoliberista, che sono dogmi soltanto quando si applicano ai lavoratori, ma quando si applicano invece ai paesi capitalisti, diciamo, alle classi dominanti, non sono più dogmi, ma possono essere anche rimessi in discussione. Tant'è che appunto Foreign Affairs, come avrà visto chi ha letto l'articolo, parla di protezionismo alla rovescia, cioè protezionismo in cui non impedisci le importazioni di merci straniere, ma impedisci che le merci, soprattutto alcuni beni di importanza fondamentale, escano dai tuoi confini e vadano a finire sui mercati esteri. Un altro aspetto riguarda, perché mi è sembrato interessante, ma nessuno ne ha parlato, il ruolo invece delle potenze regionali del Medio Oriente. Non so se Ali forse si è collegato, forse lui magari avrà qualche notizia più di quelle che ho trovato io, però per quanto riguarda paesi come la Turchia, l'Iran, l'Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, insomma, e la stessa Israele, mi pare che, con l'eccezione forse dell'Iran, sono rimasti in una posizione abbastanza defilata, nel senso che non hanno potuto sfruttare, diciamo, la questione vaccini per espandere la propria influenza, anche perché diciamo, per lo più sono paesi che non producono, non sono in grado di produrre vaccini, ma allo stesso tempo non ne sono stati neanche particolarmente danneggiati, perché, diciamo, sia per il peso geopolitico che hanno, sia per la disponibilità di risorse finanziarie, hanno avuto modo di comprare i vaccini senza avere grossi problemi, senza aver avuto i problemi che ha avuto ad esempio l'Europa. Sono anche paesi in cui le vittime sono state relativamente poche, anche in questo caso, con l'eccezione dell'Iran, dove ufficialmente i morti finora mi pare siano 65.000, ma probabilmente molto di più, e della Turchia, dove sono stati ufficialmente sono 33.000, che comunque, diciamo, sono per un paese di 80 milioni di abitanti decisamente molto meno di quelli che ha avuto ad esempio l'Italia, mentre nei paesi del Golfo si va dai 300 rotti morti del Qatar e circa 6.000 morti dell'Arabia Saudita. Israele, come noto, non ha battuto a spese e ha già vaccinato con due dosi oltre metà della popolazione, comprando vaccini occidentali, ovviamente lasciando fuori i palestinesi dalla campagna vaccinale, e anche quelli dei territori occupati da Israele. La Turchia, che ha 80 milioni di abitanti, ha avuto circa un quarto delle vittime italiane, ha iniziato la campagna vaccinale a metà gennaio e ha già somministrato 18 milioni di dosi, con una sorta di politica dei due forni, perché ha comprato sia vaccini Pfizer sia un vaccino cinese che si chiama CoronaVac, e ha dato ai turchi la possibilità di scegliere con quale vaccino vaccinarsi. Quindi sostanzialmente la Turchia, che ha 20 milioni di abitanti più dell'Italia, ha avuto un quarto delle vittime, ha già vaccinato una volta e mezzo, o meglio, ha già somministrato una volta e mezzo le dosi che sono state somministrate in Italia, 18 milioni in Turchia, 12 milioni in Italia. Per quanto riguarda i paesi del Golfo, l'Arabia Saudita ha somministrato 5 milioni di dosi Pfizer, il Qatar 1 milione, Moderna e Pfizer, mentre gli Emirati Arabi Uniti hanno creato una joint venture con la cinese Sinovac, che ha di fatto arabizzato il vaccino cinese e ne ha somministrato 9 milioni di dosi a fronte di soltanto 500 morti. Quindi in questo modo si vede anche come i diversi posizionamenti all'interno del mondo arabo e del mondo medio orientale in generale, come dire, hanno influito sul tipo di politica che questi paesi hanno fatto rispetto ai blocchi dei paesi produttori, cioè sostanzialmente rispetto al blocco occidentale oppure ai paesi orientali. Mentre per quanto riguarda l'Iran, sulla campagna vaccinale ci sono dati scarsissimi. Quello che mi risulta è che ha iniziato somministrando lo Sputnik e adesso sta testando un terzo vaccino nazionale, ma è chiaro che è un paese che è particolarmente limitato a causa delle sanzioni economiche, che non può fare il gioco dei due forni come sta facendo la Turchia. L'atteggiamento americano ed europeo nei confronti dei paesi dipendenti, cioè quello di non fornire vaccini e di non concedere neanche la possibilità di produrseli liberalizzando i brevetti, non solo aumenta gli spazi di manovra della concorrenza, in particolare dei cinesi e dei russi, ma rischia anche di lasciare il virus libero di circolare nei paesi meno sviluppati, di produrre nuove varianti che nei prossimi mesi e anni potrebbero di nuovo abbattersi sulle società occidentali, paralizzandole, creando nuovi conflitti interni. Ma non è solo nei paesi dipendenti che si aprono questi varchi, perché il paradosso è che i vaccini cinesi e russi rischiano di entrare anche in Europa utilizzando, diciamo, alcuni cavalli di Troia, perché ad esempio, mentre paradossalmente due russi su tre non si fidano dello Sputnik, la settimana scorsa Deutsche Welle, che è una radio tedesca, ha intervistato i titolari di due agenzie di viaggi, una norvegese e una italiana di Bologna, i quali hanno detto che stanno pensando di organizzare dei pacchetti di viaggio per gli europei per andare a vaccinarsi in Russia. E questa agenzia di Bologna, che si chiama Eurasian Travel ed era già specializzata in viaggi per la Russia, dice di avere già 250 persone in waiting list pronte, diciamo, a partire. È uscito sui giornali anche il ruolo della Serbia, che sta utilizzando vaccini di tutti i tipi, quindi cinesi, russi e occidentali, e offre vaccinazione agli stranieri che possono fare domanda registrandosi sul portale della propria ambasciata. E come è noto, anche San Marino ha quasi vaccinato tutta la sua popolazione col vaccino russo dopo che l'Italia sostanzialmente l'ha scaricata. Per cui, a prescindere dal fatto che poi alcuni paesi, come hanno detto la Merkel e anche Draghi, oppure la stessa Unione Europea, autorizzino il vaccino Sputnik, diciamo, sia la Russia che la Cina, come dire, hanno già piazzato dei cavalli di Troia in Europa, che in qualche modo hanno un valore anche propagandistico, diciamo. Da un punto di vista politico, secondo me la cosa interessante è che la questione vaccini, così come più in generale la pandemia, ma anche il recente blocco del canale di Suez, mi pare che portino a galla la crisi di un modello economico, cioè la cosiddetta globalizzazione, che era fondata sull'idea di concentrare la produzione in alcune regioni del mondo caratterizzate, diciamo, da condizioni politiche, sociali e ambientali più propizie, e da lì rifornire i mercati mondiali attraverso le cosiddette global supply chains, cioè le catene di fornitura globale. E su questo poi costruendo una serie di meccanismi finanziari un po' folli che, diciamo, tendono a produrre una bolla speculativa da sull'altra. Ora è chiaro che tutti questi episodi stanno dimostrando che quelle catene di rifornimento globale sono estremamente deboli, e sono estremamente deboli e vulnerabili anche perché da quando l'ideologia della globalizzazione ebbe la sua contrattazione, cioè alla fine degli anni 90, primi 2000, quando la Cina ancora doveva entrare nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, vi entrò nel 2001, a oggi sono cambiati gli equilibri nel capitalismo mondiale, nel senso che il baricentro del capitalismo mondiale si è spostato, diciamo, dall'Atlantico al Pacifico, e in qualche modo con una forma anche di nemesi storica, nel senso che di fatto i grandi gruppi occidentali, americani, europei, andando a investire in Cina per lucrare profitti più alti e pagare meno lavoro e avere condizioni di favore, in qualche modo hanno evocato quel mostro cinese che poi oggi si rivolta contro di loro e li spinge sempre più, diciamo così, alla periferia dell'impero. La cosa che a me sembra interessante è che la strategia che da una parte le strategie, diciamo, differenti che da una parte i paesi occidentali e dall'altra la Cina stanno utilizzando in questa guerra dei vaccini, in realtà ricalcano anche le strategie economiche più generali che i due blocchi hanno diciamo adottato di fronte alla crisi economica, con un Occidente molto ripiegato su se stesso e invece un Oriente, ma in particolare la Cina, che invece cerca di proiettare la sua influenza verso Occidente fino diciamo alle coste dell'Atlantico. Dico questo perché è evidente che la risposta alla crisi del capitalismo, del capitalismo occidentale, è, diciamo, la cosiddetta transizione ecologica e digitale, cioè un'operazione di ristrutturazione del sistema produttivo in larga misura pagata con fondi pubblici, che però, come dire, in qualche modo non creerà nuovi sbocchi di mercato, nel senso che è evidente che la Fiat o la Volkswagen non andranno a vendere le auto elettriche in Cina. Quindi un'operazione che rimane sostanzialmente confinata ai mercati occidentali e che da un altro punto di vista, diciamo, accresce la dipendenza dei paesi occidentali dai mercati globali e in particolare dalla Cina, che produce l'85% delle terre rare, che per queste economie, in particolare per l'economia digitale e l'elettrico, sono fondamentali. Ed è una cosa che la Cina sa da tempo, perché appunto Deng Xiaoping già diceva che il Medio Oriente ha il petrolio mentre la Cina ha le terre rare. La Cina invece costruisce la nuova via della seta, e questa è la risposta della Cina alla crisi. In questo modo rafforza la sua influenza sul continente eurasiatico e alimenta la frattura tra Europa e America, e però le spinge sempre più verso la periferia. Quindi un estremo oriente che cerca di proiettare la sua egemonia sul mondo, mentre l'Occidente ripiega su se stesso. In questo quadro, come ripetiamo sostanzialmente tutte le volte che discutiamo di politica internazionale, l'Unione Europea ne esce con le ossa rotte, ma quello che vorrei sottolineare rispetto al dibattito comune che sentiamo nei telegiornali, nei talk show, eccetera, eccetera, che non è che la colpa è solo dei burocrati di Bruxelles, perché oggi lo sport nazionale è diventato sparare tutti sui burocrati di Bruxelles, cioè non sono i populisti, è, non so, per dire, una vestale, diciamo, del moderatismo, come Lilli Gruber, no? Che addossa la colpa, ma la realtà è che i burocrati di Bruxelles avranno le loro responsabilità per il modo in cui sono stati fatti i contratti, e non ci ritorno perché l'abbiamo sentito tutti, ma la realtà è che si sono trovati a negoziare con le case farmaceutiche in una situazione di estrema debolezza, perché il capitalismo europeo è l'unico che non è in grado di produrre vaccini in modo autonomo, e se non è in grado è perché non ha fatto gli investimenti necessari, con situazioni differenziate perché diciamo la Gran Bretagna, che oggi non è più nell'Unione Europea e che secondo gli esperti oggi doveva essere un paese in macerie a causa della Brexit, in realtà con questa operazione AstraZeneca e vaccinazione di massa si rafforza. La Germania ha saputo investire sulla collaborazione con la Pfizer, perché la BioNTech, che il vaccino è Pfizer-BioNTech, la BioNTech è un'azienda tedesca, in più è in grado di comprarsi le dosi al di fuori dei contratti europei e in estate dovrebbe essere in grado di commercializzare il secondo vaccino tedesco, CureVac, che era quello di cui Trump l'anno scorso aveva cercato di comprare l'esclusiva, la Sanofi e l'inglese GSK, se non che Sanofi, mentre si apprestava a diciamo, lanciarsi in questa operazione, ha annunciato anche 1700 licenziamenti in Europa, di cui 364 in Francia, che sono licenziamenti prevalentemente nel settore della ricerca, addirittura chiudendo il centro di ricerca di Strasburgo. Il risultato è che il vaccino Sanofi è ancora in fase di test e che probabilmente non sarà disponibile prima della fine dell'anno. In questo quadro l'Italia è l'anello più debole di una catena di anelli deboli, perché è la prima produttrice di farmaci in Europa per conto terzi, quindi in un quadro, come dire, di dipendenza, perché non ha investito in ricerca. Ha preferito investire in ricerca in altre cose, ad esempio due anni fa ha visto crescere del 10% l'esportazione di creme solari e tutti i giornali economici italiani hanno salutato la notizia, diciamo, in modo molto trionfalistico. Il risultato è che ha schierato in questa operazione di AstraZeneca, cioè di un gruppo che ha un fatturato di 26 miliardi di dollari l'anno, un'aziendina di Pomezia che ha un fatturato di 40 milioni di euro e che evidentemente ha un peso contrattuale proporzionale ai fatturati. E poi c'è il tanto annunciato vaccino italiano, che siccome dovrebbe essere fatto nel Lazio, Zingaretti l'anno scorso ha chiamato anche il vaccino del Lazio, perché in questo, diciamo, il regionalismo impera, cioè un vaccino che dovrebbe essere nascere da questa collaborazione con lo Spallanzani di Roma e questa azienda che si chiama Reitera e che è un'azienda che ha sede nel Lazio, ma che diciamo è di proprietà al 100%, che in realtà è di proprietà di una compagnia farmaceutica britannica. Da questo punto di vista è evidente che è un quadro che è tutto determinato, condizionato da interessi materiali dei diversi paesi in una lotta furibonda per l'egemonia, che è acuita, diciamo, dalla crisi economica in cui ci troviamo ormai da oltre 10 anni, e che gli interessi materiali dei diversi paesi prevalgono assolutamente sul colore politico, sull'atteggiamento dei paesi. L'esempio USA è emblematico, no? Dopo che ci siamo liberati del demonio Trump, come racconta appunto l'ultimo articolo che ho tradotto di Foreign Affairs, Biden tiene in magazzino milioni di dosi di vaccino AstraZeneca che non sono ancora state autorizzate e che probabilmente non verranno mai autorizzate e che gli Stati Uniti non useranno mai. Ne ha destinato una parte ridotta per tamponare, diciamo, la crisi che c'è oggi ai confini del Messico per l'afflusso di immigrati, ma non pensa minimamente di inviarle in Europa, ad esempio. E allo stesso tempo però chiede all'Europa di dire no allo Sputnik e ai vaccini cinesi. E in questo, diciamo, anche la sinistra internazionale è totalmente afona. Lo scorso settembre, quando comunque Biden era ancora all'opposizione, quindi diciamo i democratici e la sinistra avrebbero avuto maggiore possibilità, come dire, di fare la voce grossa, Dean Baker, che è un economista fondatore di questo Center for Economic Policy Research di Washington, a proposito del nazionalismo vaccinale di Trump, scriveva: ma la vera domanda è: dove sono i democratici? Se stanno criticando il nazionalismo e il monopolio vaccinale, si fa fatica a udire la loro voce. E non sto parlando solo dei centristi come Biden, Pelosi e Schumer. Non ho sentito lamentarsi neanche l'ala dei democratici che fa capo a Bernie Sanders o Elizabeth Warren. Perché non ci sono obiezioni alla politica di Trump e la proposta di un'alternativa fondata sulla cooperazione? Per passare, diciamo, a un altro idolo, diciamo, della sinistra internazionale, cioè Corbyn, che è anche lui, diciamo, in questo momento in una posizione, non è più segretario del Partito Laburista, quindi, diciamo, avrebbe anche maggiori margini di manovra per dire quello che pensa. Ha fatto una dichiarazione a gennaio contro il nazionalismo vaccinale di Johnson, e dopodiché, diciamo, c'è stato il silenzio radio, e naturalmente anche in quella dichiarazione lui, come dire, riferiva questa accusa solo all'atteggiamento del governo britannico nei confronti dei paesi dipendenti, non ha criticato AstraZeneca per l'atteggiamento che ha avuto, ad esempio, nei confronti dei paesi europei come l'Italia. Quindi, per concludere, diciamo che l'aspetto interessante di questa situazione, in un momento in cui tendenzialmente anche tanti compagni dirigenti di sinistra si lamentano perché dicono che non c'è niente da fare, che tutto va male, eccetera, eccetera, è che tutta questa vicenda della pandemia, oggi della campagna vaccinale, in particolare questa vicenda dei vaccini, mi pare che sia una lezione su scala mondiale per miliardi di persone, come forse non ce ne capitava da qualche decina di anni, sull'incapacità del capitalismo di risolvere i problemi dell'umanità, fatta salva, diciamo, una piccola minoranza di privati che sono pronti a speculare su tutte le peggiori calamità pur di fare dei soldi. La vicenda dei vaccini è emblematica perché, mentre a noi tutti i giorni ci viene detto che bisogna essere tutti uniti contro la pandemia, che non bisogna dividersi, che di fronte alla pandemia non c'è né destra né sinistra, e le case farmaceutiche sono state autorizzate ad andare in ordine sparso, bruciando risorse con una competizione senza esclusione di colpi, che è stata sostanzialmente una colossale socializzazione dei costi e in un altrettanto colossale privatizzazione dei profitti, riparandosi da una parte dietro il diritto della proprietà intellettuale e dall'altra dietro gli interessi dei diversi paesi, anche a costo di violare gli impegni presi con chi aveva pagato anticipatamente decine di milioni di dosi e si era persino assunto l'onere di indennizzare eventuali effetti collaterali gravi. Quindi direi che la migliore dimostrazione del fatto che la teoria del mercato perfetto, quella per cui l'economia di mercato è la più razionale allocazione delle risorse possibili, una più colossale smentita, diciamo, non poteva avvenire, e dal punto di vista, diciamo, di militanti politici, sindacali, marxisti come noi, credo che questo, diciamo, rappresenti un terreno, diciamo, molto interessante su cui fare politica, insomma. E la chiudo qui. Bene, ascolta un po', essendo che poi io verso le 4:30 devo fare un altro Zoom con la rete internazionale dei cileni in Europa, per cui i tempi sono molto, diciamo, corti, vabbè. Io l'altra volta ho mandato una fotografia a Marco, molto, diciamo, emblematica, perché ci dà il segnale che se sappiamo si sapessimo parlare, diciamo, ai giovani dal punto di vista, diciamo, della situazione che vivono altri giovani, ci sono anche dei giovani lavoratori che potrebbero essere interessati a impegnarsi. L'altra volta le ho mandato la fotografia di un cartello che abbiamo fatto con i miei colleghi sulla solidarietà ai giovani prigionieri in Cile. Le ho un po' spiegato a questi ragazzi di che cosa succedeva e sono dati disponibili a fare questa fotografia con un cartello, eravamo una decina circa, di solidarietà e chiedendo la libertà, la liberazione di questi ragazzi. Emblematico perché sono tutti ragazzi giovani, sono tutti ragazzi che non superano i 30 anni. Per cui questo, diciamo, quando loro si sentono stimolati che altri ragazzi della loro stessa età, per chiedere maiori diritti, per chiedere migliori condizioni di vita da tutti i punti di vista, sono messi in carcere, loro istintivamente, ma come? Spiegami cosa succede, insomma. E questo ci dà anche questo frammento, no, di coscienza di classe, no? Limitata in se stessa, però ci dà questo approccio in senso positivo. E sotto l'abbiamo filmata, abbiamo fatto il testo in italiano che anche in spagnolo, i lavoratori pubblici Genova Italia, filmato USB. Vi dico che quelli che sono iscritti, che erano iscritti lì all'USB, eravamo io, altri due colleghi, due compagni di lavoro, gli altri, tutti ragazzi giovani che non sono iscritti a nessun sindacato e al sindacato lo vedono molto, molto male, molto male. E questo mi collego anche al fatto, diciamo, anche a una discussione che c'è permanentemente sul fatto della pandemia, sul fatto del vaccino, cosa succederà, cosa non succederà. Ma sulle cose che diceva Marco, sul fatto del, diciamo, del fatto del Paraguay, è una cosa emblematica perché oggi, diciamo, chi ha la possibilità di produrre un vaccino lo usa come un'arma politica, lo usa, diciamo, come un strumento per arrivare in una situazione e dare anche indicazione dal punto di vista politico di quello che dovrebbe fare quel paese. In questo caso il Paraguay dovrebbe togliere, diciamo, le relazioni diplomatiche, per quello che ho capito, a Taiwan e così via. Allora, come tutti voi sapete, in Cile qualche settimana fa si è parlato che in Cile la vaccinazione era così splendente, così veloce che eravamo, diciamo, in Cile Piñera aveva quasi superato Israele dal punto di vista della quantità e numero, diciamo, di vaccinati. Oggi il fatto paradossale, il Cile è dal punto di vista, diciamo, del contagio è 3 volte di più di quello che sta accadendo oggi qua in Italia, per cui il Cile oggi è una zona, diciamo, completamente rossa, ma questo poi anche ha un valore anche politico, diciamo. La pandemia viene utilizzata politicamente in Cile per far esitare le elezioni di quelli che dovrebbero scrivere la Costituente, far esitare le elezioni anche dei nuovi sindaci, che c'è il rinnovo sia regionale che i sindaci delle principali aree, diciamo, di diverse regioni in tutto il paese, per avvicinarsi sempre di più, diciamo, alle politiche, alle elezioni del presidente. E questo è il fatto dell'utilizzo del vaccino, sta usando, diciamo, lo usa molto bene Piñera, no? Dimostrando che anche se ha fatto quello che ha fatto questi ultimi 2 anni, eccetera, eccetera, ha avuto questa capacità e la gente, diciamo, dice bene. In pieno casino è riuscito a vaccinare, però in pieno casino la situazione è ulteriormente peggiorata. L'altro aspetto è questo affare qua di quello che diceva Marco sulla transizione economica che il capitalismo utilizzerà per sopravvivere, perché il capitalismo non era uscito da una fase economica, da una fase, diciamo, dell'economia mondiale che era andato a fanculo, e non stava appena appena risalendo la china quando è arrivato questo affare qua, diciamo, della pandemia. La transizione economica, dal fatto dell'ecosostenibilità, eccetera, eccetera, il capitalismo si sta attrezzando per arrivare nelle migliori condizioni per continuare, diciamo, a mantenere la sua ricchezza dal punto di vista come capitalismo a livello mondiale. Questo però tutto pagato con soldi pubblici. L'altra situazione, che è quella per la quale tanti paesi europei si trovano dal punto di vista della gestione del vaccino con il culo per terra, perché per il semplice fatto che non tutti i paesi hanno fatto investimento nella ricerca. L'Italia è all'anno zero, non ha mai fatto ricerca seria dal punto di vista, di fronte anche a pandemie che si erano già stabilite, si erano già, diciamo, affrontate negli anni passati, però la ricerca è appunto zero, diciamo, la ricerca da questo punto di vista è zero, come è zero, diciamo, anche il vuoto dal punto di vista della sanità pubblica dello Stato italiano. Oggi se siamo in una situazione più o meno fortunatamente abbastanza buona è per il semplice fatto che è rimasto un pezzo di sanità pubblica. Ma anche lì un altro aspetto che potrebbe essere utilizzato dalla sinistra, rivendicare la sanità pubblica non dal punto di vista regionale ma dal punto di vista nazionale. Sui diversi, diciamo, percorsi che i vaccini stanno, diciamo, gestendo la vita politica a livello mondiale, abbiamo i russi, i cinesi, gli europei e gli americani. E loro attraverso questo meccanismo, diciamo, lo stanno usando come era successo durante il dopoguerra, diciamo, l'operazione americana, che era quella di far arrivare milioni e milioni di dollari di aiuto ai paesi che uscivano dalla seconda guerra mondiale, che erano con il culo per terra. Oggi lo stesso meccanismo viene usato dal punto di vista del vaccino. Io ti do il vaccino, ma tu mi devi appoggiare in queste situazioni, dare il voto e il consenso e restringere, eccetera, eccetera. E questo accade, diciamo, per quanto concerne il vaccino cino, il russo, l'europeo e quello americano. L'altro aspetto, diciamo, che io volevo toccare era quello che è il futuro. Non possiamo pensare che nessuno sa, perché se lo sapessimo la ricerca si sarebbe mossa in un modo diverso. Oggi i vaccini che ci sono per tamponare, sono per creare un meccanismo che se tu te lo prendi il Covid a te non ti fa male perché sei vaccinato, ma se tu sei a contatto con un cittadino, con una persona che è vicino a te che non è vaccinato, questo qua se lo becca il Covid e non si sa, diciamo, è per quello. Però di per sé noi non sappiamo le varianti, lo sviluppo che avrà questo, diciamo, questa pandemia, che a livello mondiale questa pandemia. E di conseguenza, se a livello mondiale non si fa una campagna di liberare, che bisogna fare in modo che bisogna liberalizzare le ricette, diciamo, il fatto della costruzione del vaccino, bisogna fare una campagna mondiale, fare in modo che ogni paese ha il diritto a produrre il vaccino, deve essere fatto gratis, deve essere in maniera tale, perché le varianti, le cose che stanno succedendo sono quel puntino sull'ai che possono cambiare la situazione. Le varianti brasiliane o le diverse varianti che si stanno manifestando a livello mondiale possono mandare a fanculo tutto il percorso dei vaccini a livello mondiale, perché se la popolazione a livello mondiale non viene vaccinata, le varianti continueranno a cambiare e continueranno a essere più forti, mentre i vaccini non avranno, diciamo, nessun tipo di effetto nei confronti di queste varianti. Per cui se non si fa una politica e dare una battaglia e dire che il vaccino deve essere dato in maniera indiscriminata a tutta la popolazione mondiale. L'unico modo che c'è per fermare questo vaccino, ma di fronte a questo c'è il fatto economico. C'è il fatto economico, il capitalismo stava uscendo dalla crisi economica, si stava sollevando. Oggi, di fronte a questa pandemia, è stato, diciamo, il colpo di grazia che ha avuto il capitalismo. Oggi il capitalismo utilizza il vaccino, la fabbricazione del vaccino per rafforzare dal punto di vista economico e imperialistico. Io credo che da questo punto di vista, diciamo, le aberrazioni che noi sentiamo, le dichiarazioni dei diversi esponenti politici a livello mondiale, a livello europeo, sono veramente, diciamo, posizioni nazionalistiche che non hanno niente a che fare, diciamo, con la realtà veramente di quello che sta succedendo. Dell'Africa sappiamo alcune cose che stanno accadendo, ma sappiamo anche che la Cina sta intervenendo in maniera molto pesante in Africa attraverso il vaccino, perché se è l'unico stato che dà la disponibilità, te lo vende a un certo valore economico, è evidente che questi paesi, non avendo altre possibilità anche dal punto di vista del reddito economico che hanno questi paesi, aprono le porte al mercato cinese, aprono le porte, diciamo, al capitalismo cinese, e di conseguenza da questo punto di vista, diciamo, il rafforzamento della Cina mi sembra, diciamo, l'affermazione che c'è a marchio, che è il nuovo capitalismo in maniera molto più pesante, marcante, con tutte le cause e tutte le conseguenze che possono venire. Ci sono altri? Dico qualcosa io. Piero. Riallacciando un po' le ultime cose che diceva Marco, vedevo un po' i dati delle previsioni a livello mondiale sull'industria farmaceutica, che il guadagno i netti di quest'anno sono previsti a 71 miliardi di dollari, con un aumento del 40% rispetto all'anno precedente. Quindi questo dà anche un po', cioè non credo che ci sia nella storia recente un settore che a livello mondiale in un anno abbia fatto un balzo del 40% di utili, fra l'altro, non di fatturato. Io credo che, cioè sono d'accordo con l'impostazione che ha dato Marco alla sua relazione. Io credo che ci siano, in questi ultimi tempi siano successe cose molto interessanti, e ci siano almeno 5 elementi che ci danno l'idea di come è cambiato il quadro geopolitico mondiale. Uno è questa questione dei vaccini, cioè ne ha già parlato Marco, anche riguardo così alle dinamiche della globalizzazione. È chiaro che la trasformazione del mondo in fabbrica mondiale e la delocalizzazione di produzioni, diciamo, mostra oggi, per tutto un periodo ha mostrato per il capitalismo il suo lato positivo, che è quello ovviamente di una possibilità di profitti assolutamente nuova e assolutamente più alta di prima. Oggi comincia a mostrare l'altro lato della medaglia, cioè il fatto che questa delocalizzazione cambia anche i rapporti di forza tra i paesi, per cui a seconda dove delocalizzi poi hai anche il fatto che quello dove è delocalizzata la produzione cambia, acquista una forza che prima non aveva. Avviene oggi, lo vediamo con i vaccini, ma avviene su tutto questo, su tutte le produzioni strategiche, no? Cioè, c'è tutta la guerra sui microchip, per esempio, che sono determinanti, per esempio, per l'industria della difesa, che comunque sta dimostrando il fatto che averla delocalizzata gran parte della produzione in Asia può creare una fonte di debolezza. Sull'ultimo numero di Lotta Comunista c'è riportato c'è la traduzione di c'è la citazione di un giornale. Di un giornale economico che diceva proprio a proposito dei microchip, diceva è come se durante la guerra fredda diciamo ci si fosse accorti improvvisamente che le fabbriche di armi sono tutte a Berlino Ovest, no? E erano state messe tutte a Berlino Ovest, nel senso che anche quelle che sono state produrre microchip a Taiwan a 140 miglia dalla costa della Repubblica Popolare Cinese, da un punto di vista militare non è certo la scelta più oculata. Il secondo elemento è il ritorno in grande della leva statale per il rilancio dell'economia, cioè in tutti i paesi diciamo c'è questa, non solo c'è il ritorno di un interventismo statale, ma così la forza economica di un paese si sta misurando proprio sulla lunghezza della leva, cioè la Germania può intervenire rispetto al di là dei fondi europei, però la Germania può intervenire rispetto alla propria economia in modo ben superiore di quanto può intervenire l'Italia, e questo cambierà non solo i rapporti di forza a livello mondiale, ma cambierà i rapporti di forza anche all'interno dell'Unione Europea. In più gli Stati Uniti hanno lanciato questo mega piano, cioè l'unica vera differenza tra Trump e Biden è secondo me questo mega piano di intervento statale che hanno lanciato. La terza cosa, che sembra che completamente diversa dalle altre, è quello che ha dimostrato l'incidente di Suez. Cioè è bastata che un banalissimo incidente che ha messo per traverso una porta container nel canale di Suez ha richiesto una settimana per essere risolto, che ha causato un danno che valutano sull'1% del PIL mondiale. Quindi un danno enorme, il rischio per alcune produzioni di fermarsi per una cosa che è stata veramente minima. Proviamo a fare il paragone su quando la guerra arabo-israeliana aveva bloccato il canale di Suez per anni. Anche allora c'erano stati dei riflessi sull'economia mondiale, ma avevano riguardato solo l'aspetto petrolifero, cioè solo le materie prime. Cioè, oggi questo invece è completamente cambiato. Cioè, oggi sono i semilavorati che mancano, non le materie prime. Nel 73 avevano chiuso il traffico i sabati e la domenica, ma per il resto non c'erano stati grandi questioni di... Chi è che ha il telefono? Sono io. Va bene. E non c'erano stati grandi questioni di... altri riflessi. Ci sono ancora altri due elementi, secondo me. Uno, così solo per titoli, è l'aumento delle tensioni geopolitiche, soprattutto nell'area atlantica, e la questione è con la Russia, no? Negli ultimi tempi, questa situazione, sempre in controtendenza con la globalizzazione, tende a rialzare delle frontiere di blocco tra l'Alleanza Atlantica, per esempio, e la Russia, questioni assolutamente ridicole come la questione della spia discount a 5.000 euro di Roma, lì vengono utilizzate per un riallineamento in senso atlantico del governo italiano. E l'altra è la cosa che citava anche Gino della questione della riconversione ecologica, quindi dello scontro sulla questione della riconversione ecologica. Scusate un secondo. Clara? Clara? Clara? C'è tuo cugino che mi ha già fatto... Scusate, niente, l'altra, diciamo che da questo punto di vista io credo che l'Europa ne esca assolutamente con le ossa rotte da questa situazione. In generale per il tipo di gestione anche pratica che ha avuto della questione della vaccinazione, nei confronti di altri paesi, della questione di come ha affrontato questo problema, ma poi anche proprio per le debolezze interne, sia come struttura sia interne ai vari paesi. Cioè l'Italia, sentivo oggi in TV che per esempio la Merkel ha praticamente esautorato i land se il livello di infezione supera un certo, se l'infezione supera un certo livello, diciamo la risposta viene avvocata allo Stato centrale, no? Vuol dire che anche loro, che pure non hanno le regioni italiane, hanno dei problemi nella gestione dovute a quel tipo di decentramento. Cioè, e poi per debolezze esterne, cioè l'Europa ha dimostrato ancora una volta di essere, diciamo così, un'unione incompiuta in rapporto a questo acuirsi delle tensioni internazionali. Vengono sempre più fuori le debolezze dell'Unione Europea, che ha come suo più grande nemico, secondo me, e questa non solo è una continuità tra Trump e Biden, ma una continuità nella politica americana degli ultimi 80 anni, cioè da prima ancora dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha come grande nemico gli Stati Uniti, perché da un lato l'Europa è necessaria all'interno della NATO per fronteggiare la Russia, comunque per fronteggiare gli altri paesi, ma dall'altro hanno fatto di tutto perché non ci sia un concorrente economico. L'ultima cosa sulla questione dell'Italia, cioè in questo quadro secondo me da 2 o 3 giorni è iniziato lo sgonfiamento del governo Draghi, nel senso che l'intervento di Draghi l'altra sera è stato veramente una cosa da magliaro, nel senso che a parte che gliel'hanno sgonfiato tutti, cioè persino dopo un inizio di lecaculaggi dei giornalisti eccetera, però la gente non è che ha fatto lo psicologo 35enne eccetera, non è che ha fatto carte false per prendere un posto che non gli toccava, semplicemente è stato chiamato come tutti gli altri, e le regole per chiamare le persone le fa la fa la struttura politico amministrativa o regionale o nazionale, per cui diciamo, dato che tutti i partiti che governano le regioni stanno pure dentro al governo, è chiaro che questo diciamo caccia al furbetto nasconde un'incapacità o un'impossibilità di affrontare questo tipo di situazione. L'altra cosa che non c'entra con la pandemia, ma mi sembra che la cosa su Erdogan sia stata veramente un buco nell'acqua, non solo un buco nell'acqua, ma sia stata una cosa che ha messo in imbarazzo anche l'Unione Europea, che era lì comunque per trattare il fatto che il sedicente dittatore, che comunque, come dire, è stato eletto dalla popolazione turca, sta bloccando gli immigrati per conto dell'Europa. E il discorso, diciamo, che è un figlio di puttana, ma il nostro figlio di puttana se lo poteva permettere Truman nei confronti di Trujillo, perché Truman era presidente degli Stati Uniti e Trujillo era il dittatore di Santo Domingo, quindi le rapporti di forza. Ma Draghi non è il presidente degli Stati Uniti, ma il primo ministro dell'Italia, e Erdogan non solo è il primo ministro del paese che ha il secondo esercito della NATO, che presidia un nodo assolutamente strategico per tutti gli equilibri del mondo occidentale, che si è praticamente pappato a metà della Libia e una parte della Siria, e che comunque è diventato, con tutti i problemi interni che ha, perché diciamo in alcuni aspetti è un po' simile a Putin, no? Usa la politica estera controbilanciare i suoi problemi interni, è diventato una delle potenze regionali che ha più voce in capitolo nel Mediterraneo. Quindi un'uscita del genere, cioè, mentre la questione della seggiola, da un lato era c'è qualcuno che dice era, diciamo, stava dentro i protocolli perché Ursula von der Leyen conta come un ministro degli esteri, non come un, e quindi gli toccava al divano, ma a parte ste finezze, però era comunque una cosa studiata, perché sa benissimo che sulla questione di cui si sta trattando Erdogan ha il coltello dalla parte del manico, assolutamente, perché gli immigrati li blocca lui, no? Da un punto di vista sostanziale, io credo che abbia dimostrato, cioè Draghi, cioè persino difficilmente comprensibile una tale ingenuità rispetto a una cosa del genere, tanto che mentre in Italia sono stati tutti alle caglie il culo, tutti i partiti, ha fatto bene eccetera, a me mi è sembrato che a livello europeo non gli è andato dietro nessuno, cioè non, e oggi quanto dicono, poi il Ministero degli Esteri sta lavorando per ricomporre la situazione, quindi veramente mi sembra che, se questo era il fenomeno, mi sembra che si stia molto ridimensionando. La dimostrazione che il mestiere del politico, diciamo, ha ancora un qualche valore sul mercato, insomma. Cioè, non è la stessa cosa, cioè i soldi per certi aspetti hanno le loro difficoltà, ma diciamo, cioè sono un'altra cosa trattare i soldi. E che paradossalmente, dopo tutta la narrativa, oggi ci troviamo che Di Maio deve mettere riparo ai danni che ha fatto Draghi. Cioè, questo è veramente il colpo. Scusa Marco, siccome ho qualche minuto al capolinea e poi io vi ascolto, posso intervenire solo qualche minuto? Sì, certo. Non voglio rubare il tempo a nessuno, solo perché sto lavorando. No, certo. Io ho sentito, ascoltato tutto, però secondo me si è centrato molto il discorso sul piano vaccinale e vaccini. Io sto ascoltando tante campane, mi sto informando anche dalla controinformazione che non viene data sui media televisivi. Non penso veramente oggi che l'unica panacea di questo virus, se virus cioè esiste, nessuno nega l'esistenza, sintetico, naturale, questo ancora a oggi non si sa. Comunque non penso che sia l'unico rimedio il vaccino, anche perché da quello che sta uscendo tutti questi vaccini sono in via sperimentali, le case farmaceutiche non si prendono la responsabilità degli effetti collaterali da qui al 2023, cioè secondo me bisognerebbe veramente fare un discorso, il vaccino sì, ma solo esclusivamente su base volontaria, cioè non è impensabile. È impensabile questa campagna vaccinale, vaccino in tutto il mondo, quando veramente ad arricchirsi sono le case farmaceutiche e le aziende più forti e più grandi sul mercato. Cioè, non è giustificabile queste chiusure queste zone rosse, questi lockdown, il coprifuoco alle 22, hanno molti medici hanno trovato rimedi alternativi con cure. Si parla dell'idrossiclorochina, della vermentina, dell'eparina sulle, quando vengono i trombo. Ieri l'Università di Tor Vergata ha, poi se vuoi ti mando il link, dove è uscito pure sul telegiornale regionale del Lazio, la proteina lactoferrina. Cioè ci sono delle cure che sono efficaci, curate a casa da medici competenti, che io non riesco ancora a capire perché nessuno metta in dubbio questo vaccino e questo piano vaccinale obbligatorio. Cioè qua stiamo rasentando la dittatura, qua tra un po' se non ti vaccini non vai a lavorare, non puoi entrare, si parla del tesserino sanitario vaccinale, non puoi prendere l'aereo, non puoi, cioè io non capisco perché ancora nessuno mette in dubbio queste cose qua. Domani a Roma c'è una manifestazione degli operatori sanitari che non vogliono vaccinarsi, che glielo stanno imponendo, poche parole, e nessuno si fa una domanda: se dei medici e degli operatori sanitari non si vogliono vaccinare, ci sarà un motivo? Cioè io penso che il discorso sia molto ampio. Qui stanno ammazzando l'economia e perdendo posti di lavoro a vantaggio delle multinazionali. Io non penso che il vaccino sia la panacea di tutti i mali, anche perché ieri Draghi lo ha detto chiaramente: bisogna vaccinarsi e non sarà, ti devi vaccinare oggi, il prossimo anno ancora. Molti studi stanno dicendo che questo è un, che lo chiamano vaccino, ma è un esperimento genetico, è un vaccino genico. Quindi è uscito fuori che tutte le testate giornalistiche, sia della TV e sia proprio della carta stampata, hanno preso dei soldi per fare la campagna vaccinale. Per quello dico, io capisco che se c'è un vaccino che risolva tutte le cose, nessuno è contro i vaccini, e c'è il vaccino contro la polio che è 100 anni che lo facciamo, per carità, ci sono vaccini obbligatori che li facciamo da bambini, o l'antitetanica e quello lì, sono sperimentati, sappiamo a cosa andiamo incontro, ma questo è un vaccino che è uscito 6-10 mesi dopo la pandemia, che le case farmaceutiche ti stanno dicendo che non si prendono responsabilità degli effetti collaterali da qui al 2023, perché è in fase sperimentale. Però dobbiamo firmare il consenso per vaccinarsi su questa roba qui. Secondo me il discorso è un po' più ampio. Ho finito e ho detto la mia. Va bene. Grazie. No, era Roberto Porcella, il compagno di Torino. E... Sì, sì, Simone, hai fatto bene a chiedere. E... Ma dico due cose io magari su questo aspetto, poi se ci sono altri interventi e poi diciamo possiamo anche chiudere, nel senso che non credo che serva fare delle conclusioni, nel senso che noi abbiamo scelto diciamo di concentrarci diciamo su un aspetto della questione vaccini, perché diciamo esaurirla avrebbe richiesto molto più tempo, quindi sull'aspetto geopolitico, però diciamo io non mi voglio sottrarre alla questione che poneva Roberto, nel senso che io credo che diciamo si debba essere molto attenti nel cercare diciamo di pesare le diverse campane, dove da una parte c'è sicuramente diciamo una propaganda a favore delle case farmaceutiche che diciamo in un'economia capitalistica è del tutto naturale, anche diciamo mettendo a tacere problemi, dubbi, criticità, eccetera, eccetera. Dall'altro è vero che c'è tutta una letteratura anche diciamo opposta, in cui, come dire, anche lì spesso si fa molta propaganda. Quindi, come dire, bisogna essere molto attenti, perché io spesso sento dire ci sono studi scientifici, medici che praticano altre cure, eccetera, eccetera. Poi, insomma, uno va a verificare, io sono abituato abbastanza a verificare le fonti, e insomma bisogna stare molto attenti, perché magari ti dicono che su Lancet, che è la principale rivista medica, la più autorevole, è uscito un articolo che dice determinate cose sul vaccino, e poi invece è un intervento sul blog che, diciamo, ha un altro peso che un editoriale di Lancet, insomma, tanto per fare un esempio. Ora, io penso che il vaccino non sia la panacea di tutti i mali, nel senso che penso che per combattere un fenomeno complesso come una pandemia ci voglia una strategia, e il vaccino non può essere una strategia, può essere uno strumento di una strategia più complessiva, anche perché appunto il problema non è solo avere il vaccino, ma avere una struttura logistica che sia in grado di somministrarlo nei tempi dovuti. Ci sono i problemi legati alle varianti, alle controvarianti, in un quadro, diciamo, di incertezza dovuta al fatto che è un virus che è uscito fuori un anno fa e di cui sostanzialmente non sappiamo ancora nulla. Però credo che, diciamo, i vaccini, come i farmaci, siano una soluzione, diciamo, alle malattie, con tutti i rischi del caso, perché è chiaro che la sperimentazione abbreviata crea dei problemi, ma anche con una serie di ragionamenti, diciamo, di costi-benefici, nel senso che in generale, quando si assume un farmaco per curarsi da una malattia, la parola farmaco deriva da un termine greco che significava veleno, quindi è chiaro che tu devi fare un calcolo costi-benefici, cioè è più pericoloso vaccinarmi oppure prendere quel farmaco, oppure è più pericoloso non prenderlo e ammalarmi con le conseguenze del caso anche mortali. Quindi io non nego che ci siano aspetti contraddittori in questo, però dico che bisogna fare attenzione a ragionare, diciamo, con un grande equilibrio. E penso anche che la questione dell'obbligatorietà sia una questione, diciamo, di cui da una parte diciamo c'è un aspetto per cui, come dire, bisogna ragionare anche sui termini di quello che è, diciamo, bene fare da un punto di vista complessivo. Quindi se non vaccinarsi rischia di creare un danno dal punto di vista sociale, e a questo punto, come dire, l'interesse della società passa davanti all'interesse del singolo. Ma in realtà io credo che tutta sta polemica che si è fatta sui lavoratori, l'obbligo vaccinale, eccetera, eccetera, sia una discussione che è stata sollevata ad arte, ma che non ha un riscontro nella realtà, nel senso che abbiamo iniziato a discutere già a dicembre sul fatto se si poteva licenziare o meno i lavoratori che si rifiutavano, quelli che, e adesso siamo piombati nella discussione opposta, cioè il problema è che tutti si vogliono vaccinare e che passano davanti, no? Si scavalcano, e ci abbiamo gli psicologi 35 anni. Quindi la realtà è che il vero problema oggi non è che, diciamo, c'è gente che non si vuole vaccinare, che viene costretta. La realtà è che c'è gente che si vuole vaccinare e non c'è il vaccino. E anche per quanto riguarda la questione della sanità, i dati che dà l'ANAOMED, che è il più grande sindacato, diciamo, del settore della sanità, dicono che in Italia hanno rifiutato di vaccinarsi 100 infermieri su, mi pare, 250.000, e circa l'1% dei medici. Quindi mi sembra che sia un problema che, come dire, va relativizzato, non perché non si debba discutere, ma perché nella realtà dei fatti mi pare che diciamo non abbia un riscontro. La realtà è che oggi noi abbiamo la gente che vorrebbe vaccinarsi e che non c'ha il vaccino. Questo mi sembra il problema. Dopodiché, certo, io credo che, come dire, ci sono anche altre strade, cioè, ma anche rispetto alla questione del lockdown, noi abbiamo pubblicato due articoli, uno relativo alla strategia antipandemica di Taiwan e l'altro che è quello la strategia antipandemica della Corea del Sud, cioè due paesi che avevano già avuto l'esperienza della SARS e che si erano attrezzati e che sostanzialmente non hanno fatto un giorno di lockdown perché hanno combattuto il virus con altri strumenti, e in particolare con il tracciamento, con il tracciamento digitale, con un sistema in cui hanno incrociato tutte le banche dati di cui erano in possesso, eccetera, eccetera. Quindi credo anch'io che la strategia non sia semplicemente vaccino e chiudere tutto. D'altra parte è vero che, come dire, noi non siamo in questo momento né Taiwan né la Corea del Sud, quindi se io dovessi fare una critica a questi governi non è tanto il fatto che hanno chiuso tutto, ma il fatto che non hanno utilizzato il tempo della chiusura per cercare di attrezzarsi, come dire, dotandosi di strumenti alternativi. Perché se tu chiudi tutto per sei mesi, però poi alla fine dei sei mesi mi fai trovare che ci sono i bus necessari per portare la gente a scuola a lavorare senza chiuderli in una scatola come sardine, che hai attrezzato delle altre aule scolastiche, eccetera, eccetera, e allora a questo punto io credo che anche la gente, come dire, avrebbe accettato con minore tasso di critica le chiusure. Il problema è che qua tu continui a chiudere, a chiudere, a chiudere, tra un po' scadrà il blocco dei licenziamenti e nel frattempo non vedi un governo che abbia dato all'Italia quelle strutture che servirebbero per essere più attrezzati la volta prossima. Quindi non so se, diciamo, sono stato abbastanza, diciamo, esauriente, ma credo, come dire, che molte delle critiche che sono state fatte da questo punto di su questa questione al governo, anzi quasi tutte, siano legittime. Però allo stesso tempo credo anche che non si debba correre il rischio di finire, diciamo, in un approccio che è quello, diciamo, sostanzialmente della negazione della scienza. Cioè è chiaro che la scienza non è neutrale, quindi in una società capitalistica, come dire, spesso è piegata a volere, diciamo, delle classi dominanti, dei grandi gruppi industriali, eccetera, eccetera. Però la soluzione non può essere quella di sbarazzarsi della scienza, perché significa, come dire, buttare via il bambino insieme con l'acqua sporca. Questo credo che sia un po', diciamo, l'atteggiamento che noi dovremmo avere, ecco, rispetto a questi problemi. Sì, se posso fare qualche riflessione, sì. Io credo che quando facciamo queste discussioni dovremmo avere sempre un punto di riferimento. Noi, in qualche modo, dando alle parole un senso molto largo, siamo, come si dice, un soggetto politico, dando a questo un valore molto generale, anche per certi versi generico. E quindi discutere dei vaccini, della pandemia, e per capire che cosa sta succedendo nella società capitalistica, quali sono le linee generali di tendenza, quali sono gli argomenti che noi possiamo utilizzare nel nostro relazione quotidiana con lavoratori, con uomini e donne che incrociamo nel nostro agire. Perché credo che alla fine noi non possiamo avere né un ruolo di medici, scienziati, tecnici, perché credo che non è questo il nostro compito, poi è giusto avere anche qualche elemento di questo tipo. Però, diciamo, il nostro la nostra discussione deve avere un po' questo, capire che cosa significa la pandemia, quindi cosa significa anche la guerra dei vaccini e dove ci può portare. Ecco. Intanto quali sono gli elementi di critica? La pandemia è un evento mondiale e quindi, come si dice, possiamo per certi versi usare gli stessi argomenti, potremmo potenzialmente usare gli stessi argomenti in tutto il mondo. La pandemia ha messo a nudo un sistema economico e sociale e i suoi limiti, quindi come sia possibile mettere in crisi e mettere anche a rischio la vita di uomini e donne, perché un sistema economico come il capitalismo non è in grado non solo di prevedere, ma neanche di agire nel momento in cui un virus si mette in moto. E questo credo dovrebbe dare strumenti per una critica al sistema capitalistico. E la vicenda dei vaccini mette a nudo come nel momento in cui tu utilizzi uno strumento, perché alla fine ha ragione Marco, non è che i vaccini sono la soluzione di tutti i mali, la soluzione di tutti i mali è la messa in discussione di un sistema economico, perché se no diciamo, perdiamo un po' il senso del nostro agire, del nostro riflettere. Quindi i vaccini sono uno strumento, ma quello strumento sta dentro a un sistema economico, quindi che è il mercato capitalistico e che Pfizer, Moderna, AstraZeneca vivono rispetto alla concorrenza, alla ricerca del profitto e oggi ancora più di altri momenti anche uno strumento politico, perché le cose che vengono fuori come la questione dei vaccini diventa lo strumento politico per contendersi, diciamo, controllo su pezzi di territorio, controllo sociale, controllo economico, e quindi diciamo tenere in piedi quel meccanismo di conflitto che le varie potenze ormai da diverso tempo hanno messo in moto. E in questo esce fuori, diciamo, la debolezza dell'Europa, che anche nella vicenda pandemia e vaccini non sono in grado di contrapporsi a quelle che sono la potenza cinese e la potenza americana, benché in declino comunque sempre importante, non solo dal punto di vista sanitario e quindi tutti i limiti della capacità di avere un atteggiamento comune rispetto al meccanismo della vaccinazione, al definire se appunto è meglio AstraZeneca o è meglio Pfizer, ma anche dalla vista, se ci pensate, economico, cioè la potenza di fuoco che mette in moto gli Stati Uniti per affrontare la crisi economica è un enorme processo di ristrutturazione, perché la pandemia, credo non dovremmo mai dimenticarcelo, aprirà uno dei più grandi processi di ristrutturazione mondiali degli ultimi decenni, ridisegnerà dal punto di vista dei rapporti di forza, ma anche dell'organizzazione del lavoro, della ricerca del profitto, ridisegnerà tanti aspetti. Tutta questa cosa della riconversione ecologica, della nuova tecnologia, del sistema informatico, non è solo un fatto, vabbè, invece che l'inquinamento avremo un po' più di fiorellini. Dice che ci sarà una riscrittura di processi industriali, di ricerca del profitto e quindi anche di come i lavoratori staranno in questo meccanismo. Perché se ridisegni, diciamo, come si riorganizza l'industria, anche la vista ambientale, cioè, o pensiamo che il capitalismo improvvisamente ha scoperto l'ambiente, oppure pensiamo un'altra cosa che mi sembra che dovrebbe essere appunto la cosa che noi dovremmo rivendicare in giro, come l'ambiente diventa un grande business. E oggi il capitalismo ha anche questa grande capacità, nella imbecillità che diciamo molte volte attraversa anche la sinistra, del fatto che il capitalismo è in grado, dietro la questione della pandemia e della ristrutturazione, di utilizzare la questione ambientale per un processo di ristrutturazione. Questo credo che dovrebbero essere gli elementi generali, poi da articolare, perché non è che si possono presentare sempre così, ma del fatto che noi siamo in presenza della vicenda della pandemia, della vicenda dei vaccini, della conferma dei limiti, diciamo, del sistema economico e capitalistico, e quindi che dovrebbe esserci utile. Non siamo noi che troviamo poi le soluzioni, se è meglio questo o quel vaccino, ecco, però del fatto, diciamo, che il problema non è la campagna vaccinale, il problema è la messa in discussione di una società e di un modello sociale. È più complicato, certo, ma è anche vero che questa, diciamo, è l'obiettivo che si danno dei compagni, dei comunisti, eccetera, oppure sì, cioè, è chiaro che parli solo del giorno dopo. Ecco, noi vorremmo parlare, tanto più se ci si rivolge, come diceva Gino, a una nuova generazione con tutte le difficoltà, e dargli qualche elemento di riflessione più in là. In questo esce fuori tutti i limiti anche delle varie strutture nazionali. L'idea che possa arrivare il grande genio che si chiama Mario Draghi, che risolve i problemi strutturali del sistema economico e sociale italiano, era la grande illusione. Ecco, poi sarà anche bravo Draghi, ma alla fine ci può mettere anche il generale, ma ci sono cose che, diciamo, sono più forti del generale, per cui se alla fine il sistema economico italiano è basato su piccolo commercio, piccola industria, settore di piccola borghesia che spingono diciamo più forte dei meccanismi che sarebbero oggi necessari al sistema economico industriale italiano, è chiaro che non c'è Draghi che tenga, non c'è neanche il generale che tenga, cioè c'è un sistema economico e sociale che si è incancrenito. Tu non cambi neanche dal punto di vista del sistema sanitario, visto che parliamo appunto di pandemia e di sanità, non cambi, diciamo, una destrutturazione che hai costruito in decenni del sistema sanitario italiano, dall'assenza di ricerca, dall'incapacità di avere un'autonomia, ad avere appunto gli strumenti, cioè non produci le mascherine, così come non produci neanche i vaccini. Non c'è Draghi che tenga, cioè non lo ricostruisci con una cosa di questo tipo. Quindi vuol dire che c'è intere economie che ormai sono in gran parte fuori dal mercato mondiale e sono destinate ad essere soggetti che lavorano per conto terzi, se gli va bene, se questo è. Quindi è un fatto strutturale costruito in decenni. Quindi e questo poi, siccome sei un pezzo dell'Europa, teoricamente dovresti essere, insieme a Francia e Germania, le potenze che definiscono l'assetto europeo, pesano in casa tua e pesano anche nell'equilibrio europeo. Ecco, noi credo che dovremmo avere un po' questo compito, questo di dare strumenti di riflessione che vanno al di là del giorno dopo, che fanno parte più della discussione giornalistica, che è utile seguire, ma non ci dà gli strumenti per comprendere, per guardare un po' più nel futuro. Noi credo che dovremmo avere un po' questo ruolo, ecco. Anche quando discutiamo di vaccini, di pandemia, come questi sono dipendenti dalla società capitalistica e non vengono meno a quei meccanismi. Quindi meccanismi che sono lunghi da fatti di una lunga storia, ma che aggiornate oggi ci fanno dire, che dovrebbero farci dire, che la questione principale non risolvi la pandemia, la crisi economica col vaccino. Il vaccino, certo, sarà uno strumento utile, ma se vuoi porti qualcosa di più grande, serve un'analisi e quindi strumenti e un'organizzazione un po' diversa. Io credo che queste discussioni dovrebbero avere questo obiettivo. Dopodiché è chiaro che la difficoltà è che quella di articolare queste riflessioni in un'attività sindacale, in un'attività politica, in un'attività di quartiere, di centro sociale. Ecco, però per certi versi, l'avevamo detto anche qualche altra volta, oggi ci sono più occasioni per la critica al capitalismo che ieri, perché appunto la pandemia è una questione mondiale, è vissuta da tutti, grandi e piccoli, e oggi potenzialmente avresti più occasioni. Poi sei magari tanto debole che non le puoi usare, però credo che questo dovrebbe essere un po' il nostro ruolo. Se ci sono altri interventi... Sì, Marco, io volevo... Se mi io, senti... scusate, se è possibile, tenderei a chiudere entro una decina di minuti, ecco, per cui se riusciamo a... perché c'è un problema di carattere personale, ecco, però... Mi senti? Sì. Ok. No, io volevo dire soltanto due cose, molto veloci. Dunque... sul fatto della pandemia, credo che più o meno quello che diceva per ultimo Bruno sia davvero giusto, perché un conto è aspetto sanitario, però questo aspetto sanitario ha scatenato una crisi economica che probabilmente è quello che ha messo in ginocchio, metterà in ginocchio le società, ma bisogna vedere se metterà in ginocchio anche lo stesso sistema di produzione capitalistica, perché di fatto è così. Un punto è questo. Dunque, l'aspetto sanitario non è proprio sempre comunque l'aspetto preminente della crisi che è in corso. Uno. Due, secondo me, vaccino sì, certo, ci deve essere, deve esserci, perché non c'è altra soluzione. Io credo che non ci sarà un'elite che non si vaccinerà, dunque anche da, diciamo così, dalla parte capitalistica o degli illuminati o tutto quello che vogliamo, insomma, chiamarlo. Come li vogliamo chiamare, tutti sono vaccinati, si vaccineranno. Dunque, se questo è sono dei vaccini che modificheranno geneticamente, beh, meno male, per una volta siamo tutti uguali e ci modificheremo tutti. Intanto, per quanto riguarda questo aspetto, insomma, complottistico, no, non che non ci siano aspetti anche veri, però insomma, non si riduce tutto a questo. Per quanto riguarda invece a livello farmaceutico, io credo che l'unica cosa buona che dicono tutti, e lo scrivono dappertutto, e sono tutti d'accordo, ma non capisco anche qui perché il Ministero della Sanità non fa una campagna su questo, è quello di avere integratori tipo vitamina C, vitamina D, insomma, quotidianamente, che riescono a portare su un po' le difese immunitarie, e quando lo prendi, insomma, sarà un po' più debole l'effetto, insomma, del virus. Per quanto riguarda invece il discorso che facevi tu, Marco, all'inizio di quei paesi del Medio Oriente, allora tra Iran e Cina, loro dicono che hanno firmato un contratto che, se fosse vero, sarebbe veramente vergognoso, ma siccome che anche i cinesi scemi non lo sono e sanno, insomma, fino a che punto può reggere un governo in questo stato di cose, che è quello della Repubblica Islamica, secondo me stanno pompando tutto quanto come un map road, diciamo così, una via che potrebbe portare a un accordo, e questo lo stanno facendo in contrapposizione all'embargo americano. Questo per tutte le chiacchiere che si fa su questo famoso estremo contratto tra Iran e Cina. Per quanto riguarda invece i vaccini, allora, i morti, allora, dobbiamo sapere che in quei paesi lì i morti hanno meno peso, dunque i morti sono molti, ma molti, ma molti, ma non vengono né nominati né conteggiati, insomma, non ci sono sistemi per conteggiarli. Per quanto riguarda i vaccini, Ayatollah Khamenei ha detto che non utilizzerà vaccini americani, vaccini inglesi, vaccini europei, dunque solo cinesi e russi, però Sputnik ancora non ha un grande diffusione, non c'è, tu pensa, sono 100 milioni di abitanti più o meno in Iran, non ci sono ancora vaccinazioni di massa di nessuno di questi due tipi di vaccino. L'unica cosa che si sa che è sperimentazione del vaccino di Cuba, perché probabilmente i cubani hanno problemi di far prove su malati, perché c'è la popolazione che numericamente è bassa, i malati quasi sono inesistenti, sono pochi, pochissimi, dunque non servono, non bastano per un sistema di prove sulle persone. Dunque stanno facendo con l'Iran. L'Iran dice che c'ha il suo vaccino, può anche essere come ha i suoi missili, perché sono tutte le fotocopie dirette di quelli cinesi o sudcoreani. Dunque questa è la situazione iraniana. La crisi dei vaccini, la pandemia, il virus si è aggiunto un po' a tutta la situazione antecedente, che era pesantissimo sulla popolazione. Ho finito, grazie. Possiamo chiudere? Ah, Marco, ciao. Sì, dimmi, Michele. No, due secondi solo, tanto sì. Per la riflessione in generale della discussione di oggi. Ma io condivido molto quello che ha detto Bruno prima, cioè nel senso che io invece da questa situazione dovremmo fare un ragionamento come più politico che altro, no? Perché al di là del fatto del vaccino, eccetera, che tra l'altro sono uno di quelli che l'ha già fatto, perché con la mia situazione, la mia compagna che è immunodepressa in questo momento, mi hanno consigliato di farlo, quindi l'ho fatto volentieri e adesso domani dovrò farlo anche lei. Però sto frequentando questi hub, questi punti vaccinali e non vedo proprio, sono d'accordo con quello che diceva Marco, non vedo tanta gente che non vuole vaccinarsi, anzi vedo il contrario, vedo la coda della gente che vuole vaccinarsi, quindi non è quello il problema. Il problema è invece che dovremmo riflettere sul ragionamento è che questa pandemia, questo momento è una strumentalizzazione a favore delle aziende, delle grandi aziende, perché comunque non ci dimentichiamo che le aziende che grosse, le grosse imprese, le grosse aziende multinazionali hanno continuato a lavorare comunque con situazioni precarie. Noi ci siamo trovati ad affrontare una situazione come i trasporti che tutti conosciamo, cioè non si è riusciti a trovare una soluzione sui trasporti, sull'affollamento dei mezzi, e quindi la soluzione era quella di chiudere le scuole superiori, perché le scuole, al di là di tutto, è stato già più volte accertato che comunque le maggiori trasmissioni si avevano sul tragitto da scuola da casa alla scuola, quindi erano sempre i mezzi pubblici che c'entravano in questa situazione, e quindi dovremmo trarre un ragionamento da affrontare e farne tesoro, più che altro per affrontare politicamente le condizioni in cui ci troviamo. Per esempio il protocollo di sicurezza che è stato firmato un paio di giorni fa da tutte le organizzazioni sindacali, tra cui era stato anche invitata a firmare USB, ma in questo caso giustamente non è stato sottoscritto. C'è un passaggio che è davvero a di poco, cioè, io sono rimasto sconvolto in un passaggio di quel protocollo dove c'è scritto che comunque le associazioni datoriali e tutti i sindacati firmatari e le volontà governative vanno nel verso di incrementare la sanità privata. Cioè, io rimango sconvolto da questa cosa qua, quando in questo momento noi ci siamo trovati ad affrontare un'emergenza e se la sono dovuta in qualche modo affrontare solo gli ospedali pubblici. Quindi dovremmo focalizzare gli obiettivi della discussione politica più che altro su questo che altro, sul vaccinarsi sì o vaccinarsi no. Noi ci troviamo per esempio in un'azienda di 4.000 dipendenti, parlo della nostra, dove comunque non penso che si avrebbero problemi tirando fuori 1 milione di euro, perché di quello si tratta, 1 milione di euro per vaccinare tutti i dipendenti volontariamente, logicamente, ma mettere a disposizione i vaccini. Eppure non si fa, perché da un anno si sta facendo cassa nelle aziende con la scusa della pandemia, con la scusa delle limitazioni del traffico, si sta facendo cassa su tutti i settori. Per esempio, è già ormai un anno che l'azienda non sborsa più un centesimo per le mense aziendali perché sono chiuse o addirittura inaccessibili, perché le hanno rese talmente inaccessibili con le regole che non possono essere sostituite. Quindi stanno guadagnando in tutti i settori. Quindi credo che ci sia pure un interesse da parte delle aziende a che magari questa pandemia continui per alcune aziende, logicamente, non parlo di tutte, che continui ad esserci una forma, come dire, in questo momento a cui ricorrere per poter riequilibrare i bilanci dei disastri che ci sono stati in questi anni. Quindi penso che l'obiettivo del ragionamento dovrebbe essere focalizzato più su questo che su altro. Grazie. Va bene. Direi che, se siamo d'accordo, possiamo chiudere qui. E quindi niente, ci sentiamo, ci diamo appuntamento tra un mese, solito. Va bene? Okay. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.